известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Our goal must be unambiguously to support and help stabilize a democratic Pakistan. We do not think Pakistan is a failed state. We think it's a state under extreme test. Così ha parlato ieri Richard Holbrooke, l'inviato speciale dell'amministrazione Obama per il Pakistan e l'Afghanistan, alla vigilia di un incontro molto importante che avrà luogo oggi a Washington, anche strutturato con grande cautela nella stessa scaletta che scandirà gli appuntamenti. A vedersi saranno il presidente degli Stati Uniti Barack Obama con alcuni membri dedicati naturalmente a questo genere di problematiche, e con lui si incontreranno i presidenti di Afghanistan e Pakistan, ovvero Hamid Karzai e Asif Ali Zardari. Il cerimoniale prevede che tutto ciò che accadrà alle ore 2 pomeridiane di Washington, quindi alle 8 di sera ai nostri orologi, comincerà con un incontro bilaterale tra Obama, accompagnato, scortato dal vicepresidente Joe Biden, con il presidente dell'Afghanistan Hamid Karzai. L'incontro durerà 40 minuti circa e sarà seguito poi da un altro incontro bilaterale tra Obama, sempre con Biden, e il presidente del Pakistan Asif Ali Zardari. Quindi, a conclusione di tutto ciò, attorno alle 3:30 si vedranno tutti insieme. L'incontro viene annunciato infatti dal protocollo della Casa Bianca come trilaterale e prevede appunto la presenza di Obama e dei due presidenti ospiti, come diceva Richard Holbrooke in apertura nelle parole che abbiamo registrato nelle sue dichiarazioni. L'atteggiamento vuole essere da parte della Casa Bianca innanzitutto costruttivo. Il nostro obiettivo, diceva Holbrooke, deve essere senza ambiguità quello di sostenere e aiutare a stabilizzare un Pakistan democratico guidato dal presidente Zardari. Ma la cosa va vista un po' più in profondità, perché al tempo stesso arrivano stamani le notizie di circa, probabilmente più di 30 vittime in un bombardamento aereo americano in Afghanistan. Si parla di 500.000 di civili evacuati dalla valle dello Swat nel nord-ovest del Pakistan, dove ormai è imminente, a ore addirittura potrebbe cominciare, una feroce battaglia tra esercito governativo e talebani. Non a caso la concentrazione, l'attenzione della Casa Bianca in questi giorni è con grande attenzione rivolta proprio a questo scenario, uno scenario esplosivo nella regione, e con un approccio molto ben definito da parte della Casa Bianca. Se è vero che fin dall'inizio, fino addirittura dal suo discorso di insediamento, Barack Obama ha parlato di una dottrina della responsabilità, un po' come parole chiave della sua presidenza, del suo mandato, che andava a incominciare. Responsabilità vuol dire tanto tutti sono chiamati a corresponsabilità nella azione positiva verso il bene della nazione e del mondo, quanto al tempo stesso lo Stato, il governo, si sente responsabile nei confronti di tutti. È proprio in questo scambio empatico di responsabilità, secondo Obama e la sua visione, si basa il rilancio, la ripartenza degli Stati Uniti d'America. Ebbene, questa dottrina della responsabilità ormai è chiaro, si va a estendere anche sul piano internazionale, e questi incontri proprio che riguardano la zona più calda, l'area di crisi più preoccupante del pianeta, ne possono essere la dimostrazione, perché in un certo senso qui area di responsabilità diventa addirittura area di coinvolgimento, perché poi alla fine l'obiettivo di Barack Obama e del suo socio Joe Biden negli incontri di oggi sarà proprio questo: ottenere il coinvolgimento attivo dei governi di Afghanistan e Pakistan in una battaglia comune che in questo caso riguarda la minaccia talebana congiuntamente nei due paesi, e l'idea è proprio che si debba coinvolgere fino in fondo le autorità locali da parte americana, non più andare a cambiare i regimi, ma in un certo senso fornire tutto l'apporto necessario affinché i regimi trovino il modo di cambiare per il meglio. Questa è indubbiamente una priorità assoluta della Casa Bianca in questo momento, che vista e considerata la fragilità, per come viene giudicata dalla Casa Bianca, del Pakistan, più pericolosa addirittura di quella afghana, a causa tra l'altro della recente offensiva talebana e anche della potenza nucleare di Islamabad. Lo stesso Obama lo ha ricordato la scorsa settimana, no? Affermando che è per l'America assicurarsi che il Pakistan sia stabile, sia uno Stato che non diventi una potenza militante armata di armi nucleari, è, testuali parole, virgolettato, un enorme interesse di sicurezza nazionale. Naturalmente sullo sfondo c'è la debolezza dell'esecutivo di Zardari, è stato sottolineato anche dal capo degli stati maggiori unificati del Pentagono, che è l'ammiraglio Mike Mullen, massimo vertice militare americano, che si è dichiarato convinto che l'arsenale nucleare pakistano sia al sicuro, ma non ha nascosto di essere molto preoccupata per i successi che i talebani stanno raccogliendo recentemente nella loro marcia verso la capitale del Pakistan, e anche per la situazione militare in Afghanistan, con peraltro, come anche tutti i giornali di oggi registrano con una certa attenzione, una come dire, difficilmente decifrabile situazione elettorale in Iran che si profila sullo sfondo a fronte di elezioni ormai vicinissime. Manca poco più di un mese al confronto elettorale in Iran, quindi di grande interesse ciò che andrà in scena oggi a Washington, di grande interesse vedere soprattutto laddove, al di là delle promesse, degli intenti e dei propositi espressi così con buona volontà dai partecipanti, poi si scenderà in una chiave operativa. Gli americani sembrano piuttosto pronti ad agire, soprattutto perché estremamente preoccupati. Vedremo già domani quali saranno le reazioni a questa presa di posizione. Tra l'altro, scenari internazionali estremamente vivaci, estremamente mobili in questi giorni, se è vero che tra l'altro è in partenza il Papa, il Pontefice Benedetto XVI per il viaggio in Israele, un viaggio di grande importanza e di grande complessità al quale dedicheremo nei prossimi giorni grande attenzione, perché interviene sia in un procedimento complesso, quello di pacificazione di Israele, sia in un momento estremamente delicato dei rapporti anche tra le comunità religiose, che poi sono, se vogliamo, se possibile, ancora ulteriormente aggravati anche da fatti che succedono, no, dall'altra parte della finestra, diciamo così, non della barricata. Se è vero che è arrivato un nuovo imam alla Mecca, un nuovo imam estremamente vocale, uno che ha molta voglia di farsi notare, farsi sentire, di parlare, uno che ama, come ha fatto nella sua prima intervista da imam della Mecca alla BBC, ama paragonarsi a Barack Obama, forse soprattutto perché anche lui ha la pelle scura come Barack, e che dice però cose anche estremamente provocatorie, tipo il regno va a vita è di gran lunga più magnifico del Vaticano, ne fa una questione di antagonismo. Si chiama Sheikh Adil al-Kablani, è stato nominato di recente dal sovrano saudita alla prestigiosa carica e sta cominciando a prendere piede sullo scenario delle comunicazioni non solo intrareligiose ma anche internazionali. Il suo è un ruolo di alto profilo, è un uomo di origini africane, di grande tempra, di grande aggressività anche dal punto di vista oratorio. Nelle sue uscite, in questa intervista rilasciata in lingua araba, non ha nascosto il suo astio, insomma attacca senza mezzi termini la Santa Sede, i cristiani, gli ebrei, definisce apostati anche gli imam della confessione sciita, che pure sono della sua stessa fede islamica. Poi, ancora scenari. Sullo scenario di Gerusalemme c'è anche un agente di grande interesse che si sta muovendo in queste ultime ore. Il suo nome è ben noto, anche se lo si sente pronunciare meno spesso del solito, è quello di Tony Blair, ormai diventato in un certo senso il principale interprete delle volontà occidentali, partecipazione occidentale alla soluzione della crisi israelo-palestinese. Blair ha detto ieri che ci sarà una nuova organizzazione per quello che riguarda la strategia volta alla fine del conflitto israelo-palestinese, e quello che posso dire adesso è soltanto che la questione viene trattata al più alto livello dall'amministrazione americana e della comunità internazionale. La cosa è fonte di grande speranza e ha promesso di da adesso in poi, entro le prossime 5-6 settimane, di dare al mondo un'idea più chiara di quale sarà la nuova strategia e di essere lui l'interprete di questa nuova strategia. Interprete, ovvero naturalmente la gente. Per concludere, come sempre, almeno una notizia leggera, perché poi non solo di aree di crisi si campa anche di hamburger. E allora insomma, forse in vista dell'incontro con il presidente afghano e di quello pakistano, che sono quegli incontri insomma che devi affrontare con una certa grinta, insomma, Joe e Barack si sono tolti la giacca e maniche e camicia, sono andati a mangiarsi un hamburger. Hanno scelto Rice Hell Burger, l'hamburgeraro dell'inferno, direi, questo è il nome del localuccio, che si trova a Arlington, quindi verso il mare, rispetto al distretto di Columbia. Solita teoria di macchine, fila alla porta che Obama e Biden hanno fatto educatamente, non sono passati avanti. Non solo, Biden ha pagato il suo conto e quello di 5 giornalisti, il conto medio era di 6,50, quindi bella forza, caro Barack, lo potevo pagare anch'io. Biden invece non gliel'ha pagato, Barack se l'è pagato da solo, sempre 6,50 il conto. Se poi siete un po' feticisti, vi dirò anche che Barack ha mangiato un cheeseburger cottura media mostarda piccante, chi se ne frega perché scrivono queste agenzie, però soprattutto chissà perché le leggiamo noi. E Biden, a questo punto chiudiamo il disastro di questa notizia, ha mangiato un hamburger con peperoncini, che secondo me potrebbe anche essergli rimasto un po' sullo stomaco. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days are gonna walk all over you. Ma questa ci viene in mente, questa canzoncina, ogni volta che si parla così di eserciti americani che bene o male si mobilitano. Questa viene dai tempi del Vietnam, no? Ve la ricordate, Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. Però qui si parla di grandi manovre, quello che vi abbiamo appena raccontato, come dire, viene chiuso in modo quasi complementare dall'annuncio che il segretario della difesa americano Robert Gates è arrivato in Afghanistan. Colloqui con vertici militari, missione NATO, in un certo senso sta facendo il lavoro dall'altra parte, no? Non quello diplomatico, probabilmente quello di coordinamento operativo. È chiaro che sistemate alcune cose estremamente urgenti che non potevano aspettare adesso l'attenzione internazionale, l'attenzione della Casa Bianca sui scenari internazionali si sta focalizzando assai fai in fretta e di conseguenza ci si possono attendere decisioni anche piuttosto corpose, anche piuttosto importanti, di cui esiti avranno echi sui scenari internazionali già nelle prossime ore. Però quanto a questo ci fermiamo qua, perché noi sappiamo che la gatta da pelare in questo momento è qui a casa nostra. Express yourself. Beh, non saremo, vero, un talk show di prima serata, noi non saremo un talk show di seconda serata, per quanto mi riguarda mi sembra non siamo neanche un talk show di terza serata. Non siamo talk show, punto. Purtroppo non siamo un talk show e ce ne duole, o forse no, non ce ne frega niente. Comunque, di fatto l'argomento è quello, abbiamo seguito con interesse l'esitazione dei talk show che per un paio di giorni, di fronte al fatto con la F maiuscola, ci parlavano di problematiche dell'influenza suina, che abbiamo capito che fanno poco ascolto, poi boom, tutti insieme sono planati come, no, come caccia d'assalto sulla storia Berlusconi, sulla storia Silvia Veronica. C'è stato un porta a porta strombazzatissimo, ci sono state prese, riprese, posizioni, controposizioni, correzioni delle posizioni. A noi naturalmente, anche un po' per il ruolo che abbiamo di osservatori delle cose del mondo da questi microfoni, inevitabilmente ci è venuto in mente tutto ciò che capitò a suo tempo attorno a Bill Clinton, all'affare Lewinsky, alla posizione di Hillary, alle parole dette da Hillary. Non vi dimenticate che Hillary parlò, e se parlò all'epoca forse andrebbero rispolverati certi discorsi. Abbiamo proposto un confronto, mentre, come abbiamo scritto oggi su Facebook, i media internazionali ci sfottono e non vi dico quanto, le cronache non è che brillino, le nostre le cronache internazionali a loro volta non è che brillino un po' di moralità inoppugnabile. Insomma, vi abbiamo chiesto: ma per voi le categorie buone per Bill Clinton alcuni anni fa vanno bene anche per il nostro primo ministro, oppure, come diceva, no, quel noto eccellente cantante, sono solo canzonette? E oggi sul tetto metaforico della nostra pagina di Facebook grandine, nel senso che sono tantissimi messaggi che stanno arrivando probabilmente anche mentre siamo in onda, tirandoci le orecchie, dice, no, ma perché ne volete parlare? Qualcuno ha detto parlate dell'Afghanistan, infatti ne abbiamo parlato all'inizio. Però devo dire che più che soffermarsi sul paragone, se sia pertinente o meno con Clinton, i nostri ascoltatori hanno colto l'occasione per sfogare i loro istinti, insomma, dire i loro pareri spesso, ma quale Clinton? Spesso, ma che bucianti, ce ne devo dire, velenosi sulla vicenda Berlusconi-Veronica. Allora, c'è Sandro che dice: mi pare che questa vicenda privata sia diventata un'edizione di Dallas, paragone azzeccato, dove chi è senza peccato però scagli la prima pietra. Elisabetta è d'accordo, sono solo canzonette e già molto noiose. E poi c'è Luca che dice: io sono tra quelli che pensa che degli affari privati non ce ne dovrebbe fregare niente. Penso che Clinton sia stato un ottimo presidente, ma non certo un ottimo marito, ma la seconda cosa non mi riguarda. Berlusconi deve ancora dimostrare se sarà un ottimo presidente, ma delle sue beghe con Veronica non mi interessa nulla. Giulio dice: Clinton mentì al paese e questo in America è inaccettabile. In Italia si stanno facendo gossip di sesta categoria. Berlusconi, sesta, sì, bassissima. Se fosse furbo, a ogni intervista direbbe che ama sua moglie come il primo giorno. Bah. Davide concorda con la posizione della regina Elisabetta, che non è che fece proprio i complimenti di recente a Berlusconi. Carlo: una volta si diceva che la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni sospetto. Oggi è ovvio che non è più così, almeno in Italia. Sauro: l'indignazione non è più virtù italiana, sono convinto che l'80% degli indignati sotto sotto invidia le possibilità di Silvio. E allora, mentre Sergio invita Berlusconi ad imparare da Obama come si sta con moglie e figli, c'è invece Dario che dice: il peccatore dell'Arkansas, quindi Bill Clinton, non aveva infierito sulla moglie, le aveva chiesto scusa, non aveva dato la colpa ai repubblicani, né credo aveva trovato un Bruno Vespa capace di inchinarsi davanti alla sua maestà. Umberto: ci stiamo avventurando nell'incognito mondo di politica e spettacolo, come il primo soccorritore in capo oppure il primo spazzino Italia a Napoli. È questo che viviamo. Influenzerà il voto? Troppo presto per dirlo, non credo in grande misura. Andrea dice: il paragone con Clinton non combacia, lì l'indignazione fu enorme, a differenza dell'Italia dove a indignarsi è solo una piccola minoranza. Anna Rosa: tutto il mondo è paese, ma noi ci dobbiamo vedere sotto dei complotti per giustificare la pochezza morale che imperversa. Danne uno ancora, poi dobbiamo andare. E beh, ce n'è uno di Michele su cui meditare, pesante come un macigno. Berlusconi mediaticamente in questo momento è inarrestabile. Il deserto positivo del PD lascia forza relativa a Casini e Di Pietro e mette nella condizione il Premier di crearsi persino pure una posizione interna. Nel costume sociale sta già creando una percezione di costituzione nuova. L'ultima la assegno a Massimo, che mette, come dire, il coltello nella piaga. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. E comunque, non so se vi ricordate Monica, qui la prova sul vestito non c'è. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. A questo punto parliamo di qualcosa che è veramente americano d'America, come direbbe Alberto Sordi, che insomma, cerchiamo di essere un po' più alti, che appartiene al tessuto connettivo della nazione americana come poche altre cose, perché discende direttamente dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America, che specificatamente ne parlano, e tutto ciò è la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, un organismo essenziale proprio nel cuore più profondo della nazione, per come è in grado ed è delegata a dirimere questioni essenziali che riguardano uno dei principi, magari un po' meno scritto, ma presente nei cromosomi degli americani, se possiamo dire così, che è la protezione della libertà dell'individuo di agire, scegliere e comportarsi secondo le proprie decisioni, almeno finché tutto ciò che fa naturalmente non varchi i confini scritti e quelli non scritti, anche e soprattutto, e proprio in questo genere di cose entra spesso in ballo la Corte Suprema, quando magari l'individuo in questione è parte di una minoranza, quanto esigua possa essere questa minoranza. La Corte Suprema è rappresentata da 9 giudici che restano in carica a vita, quindi è chiaro che la elezione di un nuovo giudice a Corte Suprema è un evento assai importante, e ce n'è uno però che si chiama David Sauter, un personaggio assai particolare, nominato nel 90 da Bush padre, quindi per 19 anni in servizio alla Corte Suprema, adesso non ha neanche 70 anni, è ancora un uomo perfettamente in forma, anzi proprio per questo dice che se ne vuole andare, che di Washington ne ha abbastanza, vuole tornare a casa, il New Hampshire, nella parte rurale del New Hampshire, vuole tornare a fare le sue scalate, le sue uscite in barca a vela, vuole tornare a godersi un po' la vita in un altro spirito profondamente americano, e lascia una poltrona vuota. Obama ha la possibilità di riempire questa poltrona ed è partito naturalmente un toto giudice formidabile, perché poi sugli equilibri assai sofisticati di questa corte e anche poi su come questi equilibri possono influenzare la stessa vita degli americani, il quotidiano degli americani, molto discende, molto passa attraverso. Ne vogliamo parlare con il nostro Mario Plater, corrispondente dagli Stati Uniti del Sole 24 Ore, ma prima di tutto ti saluto, Mario, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Prima, scusa, la parentesi è inevitabile, ma la devo fare, ma insomma, echi del nostro personale caso Lewinsky, insomma qualcosa del genere, da quelle parti si sentono, se ne parla? Si sentono, se ne parla, il New York Post ha pubblicato un paio di foto, ma direi non più di tanto, ovviamente. Il New York Times ha fatto un articolo così molto diligente, riassumendo un po' le dinamiche che hanno portato a questa esplosione pubblica di un fatto privato, poi certo, alla fine certo. E direi che la cosa più o meno si è fermata lì. Ogni tanto qualcuno le parla, ma direi molto meno di quello che succede, di quello che succede da noi. Ecco, è inevitabile poi che quando succedono cose di questo genere il pubblico in qualche modo se ne impossessi. Ecco, certo. Però devo dire qui per ora se ne parla un po' meno. Scarsa eco dell'affare. Senti, arriviamo scarsa eco. Ecco, diciamo che un divorzio, ecco, direi che è una situazione ben diversa dalla questione Lewinsky, che certo, ha portato certo a una serie di conseguenze istituzionali e costituzionali dal fatto che una coppia decide di divorziare. Certo, ecco, quindi certo. Il divorzio forse è una cosa un po' più privata da quel punto di vista, beh, invece anche quella ovviamente inevitabilmente va in pasto al pubblico. Senti, anche tu da grande intellettuale, quale insomma io ti ritengo, sei un simpatizzante di David Sauter, perché si dice che gli intellettuali in America avevano un debole per quest'uomo, questo giudice così spartano, così no, appartato, ma al tempo stesso così raffinato. Sì, un giudice spartano, raffinato, appassionato di storia e appassionato ovviamente del suo mestiere, perché si preparava con straordinaria meticolosità in tutti i casi in cui veniva coinvolto, ma soprattutto appassionato dell'outdoor, come si dice qui, appassionato del suo New Hampshire, di questo minuscolo paesino sperduto tra le montagne del New Hampshire, stato relativamente piccolo, dove ci sono 20 picchi montani di montagne, non diciamo alti, insomma intorno al più alto forse sarà di 1500 metri, 1200 metri, e sembra che Sauter li abbia scalati tutti. Quindi è così, ama fare le passeggiate e ritorna appunto in questa sua casa dove è cresciuto, in questo minuscolo paesino, e andrà lì, non ha alcun programma, e ovviamente relativamente giovane, perché insomma appena 70 anni, certo. Il più vecchio giudice Kennedy ne ha 89, abbiamo il mandato è a vita, quindi insomma lui avrebbe potuto avere altri 20 anni davanti a sé se avesse voluto, eppure ha scelto appunto di archiviare questa sua avventura, probabilmente anche per dare la possibilità a Barack Obama di nominare qualcuno che avesse questo suo piglio così di indipendente. Ricordiamolo, lui fu nominato da George Bush Senior, quindi il padre dell'ultimo presidente Bush, e fu nominato su raccomandazione di Sun Unu, che era stato governatore del New Hampshire ed è un fedelissimo conservatore, assolutamente un conservatore di ferro, e evidentemente preso un abbaglio, perché in realtà di Sauter non si sapeva molto, non aveva fatto delle sentenze particolarmente importanti, e Sun Unu credeva che così, sulla base delle loro conversazioni, fosse un convinto conservatore, cosa che probabilmente Sauter è, però è anche molto indipendente, molto autonomo, in grado di prendere le sue decisioni sulla base di quel che ritiene sia giusto e non sulla base di quel che ritiene sia ideologicamente giusto, e dunque ha un po' squinternato gli equilibri della Corte, perché a un certo punto ha cominciato a prendere delle decisioni indipendenti, autonome, e la maggioranza che doveva essere solidamente in mano alla destra, diciamo, con una maggioranza di 6-3, in realtà è diventata una maggioranza di 5-4 e Sutter è considerato uno dei quattro, diciamo, democratici. Quindi gli equilibri non sono destinati, almeno per adesso, a spostarsi granché. Ma che ne dici di questa teoria che circola parecchio nelle indiscrezioni, della possibilità che a diventare giudice possa essere non un giudice di professione, non un togato, diciamo così? Ma dunque, circola un'indiscrezione di ogni genere, ma secondo me, allora, intanto il prossimo giudice di sicuro sarà una donna. Una donna, certo. Quindi su questo direi possiamo essere certi. Sarà una donna probabilmente di una minoranza, questa dovrebbe essere l'idea, non afroamericana, ma probabilmente ispanico. Non ci sono degli ispanici oggi in Corte Suprema. Certo. La popolazione ispanoamericana ha contribuito molto alle elezioni di Obama, ha comunque un peso rilevante negli equilibri demografici del paese e dunque è giusto che abbia in qualche modo una sua rappresentatività. E allora si parla molto di Sonia Sotomayor, certo, una donna che si è fatta da sola, 54 anni, nata nel Bronx, cresciuta in mezzo a mille difficoltà, riuscita ad approdare alle importanti università americane grazie alle borse di studio, carriera di giudice, scusate, prego, e oggi è un giudice nella Corte d'Appello del secondo circuito qui a New York. Quindi direi che fra le donne lei è la numero uno, poi ce ne sono varie altre, c'è Elena Kagan, di nuovo è al Dipartimento della Giustizia e dunque non è un giudice tecnicamente, ma è il Solicitor General, quindi un po' come fosse un avvocato del consigliere legale del Dipartimento della Giustizia, e poi Diana Wood, che è invece un giudice anche lei della Corte d'Appello, però per il settimo circuito. Quindi io immagino che alla fine si andrà in quella direzione. Ci sono stati dei momenti in passato in cui non ci si è rivolti a giudici, mi ricordo che a un certo punto Clinton, quando doveva nominare appunto un giudice nella Corte Suprema, lo offrì a Mario Cuomo. Mario Cuomo era stato avvocato, era stato politico, era stato governatore dello, certo, stato di New York, ma non era mai stato giudice, e Cuomo rifiutò perché ritenne che, diciamo, fare questo mestiere, che poi è un mestiere molto laborioso, di grande concentrazione, di grande dettaglio, un po' dei topi di biblioteca chiusi in questa torre d'avorio, così isolata dal mondo, non era poi il suo mestiere, non è certo il mestiere di un politico, di una persona che è aperta nei confronti del mondo. Va bene, grazie a Mario Platero, vedremo come si orienteranno le scelte del Presidente, è un pronunciamento importante, è anche una alchimia quella che dovrà produrre Barack Obama nella scelta del nuovo giudice della Corte Suprema, che comunque entrerà, come dire, ufficialmente a far parte dell'organismo a partire dalle sedute di ottobre. Bene, bene, allora adesso vinco una scommessa che faccio da solo, ovvero vi dimostro che c'è un posto dove la storia di Veronica e Silvio non è arrivata, non ne sanno niente, probabilmente non gliene frega neanche nulla, perché un amico di Jefferson, che si chiama Giuliano Noce, fa il docente di marketing al Politecnico di Milano, si trova talmente lontano che noi non abbiamo resistito alla voglia di contattarlo e di chiedergli cosa sta facendo in un posto dove secondo me non fa molto caldo, dal momento che si trova in Siberia e si chiama Tomsk. Giuliano, mi senti? Assolutamente sì, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori dalla fredda Tomsk. Ecco, questo mi sembra un attacco, come dire, istituzionale. Ma cosa fai a Tomsk? Cosa sei andato a fare? Cosa ti ci porta? E quali sono le finalità del tuo viaggio? No, sono qui innanzitutto a 4 ore e mezza d'aereo da Mosca, quindi sono arrivato a Mosca e non ero nemmeno a metà del viaggio, sì. E ho fatto praticamente 4 ore di foreste, tundra, steppa, betulle, una cosa incredibile. Sono qui a Tomsk perché ci sono delle importanti opportunità di collaborazione tra il Politecnico, l'Università e la Municipalità Locale per due ordini di motivi. Uno, la costruzione di una città, una nuova città da 150.000 abitanti, tanto per gradire, un primo esperimento che poi vorrebbero estendere ad altre 5 città. E in secondo luogo, per valutare insieme, accanto alla costruzione di questa nuova città, lo sviluppo di una zona economica speciale, quindi una zona riservata a nuove aziende che godranno di benefici in termini di tassazione e di infrastrutture e di servizi assolutamente privilegiate. Beh, insomma, certo, siamo ancora alla creazione di città ex novo, insomma, ricordi, no, di altre epoche sovietiche, come si dice, ma sì, si fa ancora? Assolutamente sì, assolutamente sì. Se qui non è giunta l'eco della storia tra Veronica e il presidente Berlusconi, sicuramente si ricordano invece molto bene l'esperienza di cooperazione di Togliattigrad, certo, che ha visto, certo, l'Italia cooperare nello sviluppo di questa città, dove si è insediata anche la Fiat, e grazie a questa positiva esperienza hanno deciso di contattare l'Italia, nella fattispecie il Politecnico, per cercare di, a partire da questa esperienza, di valutare la possibilità di costruire nuove città e accanto a queste città nuovi insediamenti industriali. Senti, noi siamo molto interessati a questo tuo viaggio, ci piacerebbe, per esempio, adesso il tempo è tiranno, l'abbiamo praticamente finito, ma ci piacerebbe risentirti se sei d'accordo, se ne hai voglia, ma solo per mandarci un'istantanea, veloce, ma com'è Tomsk in Siberia? Dici qualcosa. Ma una città incredibile, cioè 500.000 abitanti, di cui 100.000 sono studenti. Passa qui un fiume che è lungo 6.000 chilometri e il cui fronte è largo 6 chilometri, quindi questo ci dà un'idea. È largo 6 chilometri. La Russia. C'è un fiume largo 6 chilometri. Va bene. Largo 6 chilometri. E qui si estraggono 10 miliardi di tonnellate di petrolio all'anno. Io propongo di parlarne ancora, perché sono scenari interessanti di un mondo che è piccolo ma che a modo suo, come ascoltate, può essere anche molto grande. Giuliano Noci da Tomsk in Siberia. Mi piacerebbe molto vedere questo fiume largo 6 chilometri e lungo 6.000. Questo dunque è il pianeta, per come ve l'ha raccontato oggi Jefferson 2, l'arte della svolta. Stefano Pistolini in redazione, Emiliano Enrico in regia, Valerio Rocchetti a Roma, Valeria Bernardi a Milano, la mail è jefferson2@radio24.it e le nostre pagine Facebook, redazione Jefferson 2 per contattarci direttamente e parlare con noi, o Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself per partecipare ai nostri focus e prendere parola qui all'interno del programma, che va in replica a mezzanotte, è in podcast sul sito della radio e vi aspetta domani attorno alle 4 qui da Radio 24. Ci risentiamo. 生涯心，沉默的人最聪明，不做无聊的回忆。拜谁？拜谁？